si bagna mentre un temporale ci sorprenderà. Disegniamo nuvole di carta, ritagliamo l'orizzonte che pian piano sparirà. E poi ti ritrovo a dipingere quel muro mentre cerco insieme a te complicità. Come una cosa sola, un pensiero che ora vola dentro il cuore tuo si infilerà. Io starò insieme a te, anche una forma la gara che c'è. Io starò insieme a te, che sei l'altra parte di me, l'altra parte di me. Di me, l'altra parte di me. Di me. Come nella trama di un film visto, già rivisto mille volte, ci troviamo io e te. Al telefono adorno